parte di ogni biblioteca degli insegnanti democratici e socialmente impegnati negli anni 70 è un'antologia pubblicata da Zernichelli relativa alle donne ed andava ad estrapolare da libri di storia, di sociologia, di antropologia, di letteratura, pagine riguardanti la tematica femminile. E questo è un numero di una rivista storica delle donne, si intitola Memorie, una rivista che è uscita negli anni 80. E tra l'altro ricordo di aver organizzato come libreria, come cooperativa libraria nei primi anni 80 la presentazione di questa rivista a quello che allora era il Circolo della Stampa, l'attuale sede dell'archivio storico del comune, sotto i portici, una serata indimenticabile perché si svolse in pieno blackout, quindi a lume di candele per tutta la serata. E che donne mi sa questo volume della rivista Genesi, no? Che questo è il primo numero, ma è appena uscito anche il secondo numero, l'annuario 2000. E in questa rivista le donne rivendicano il diritto di parlare di una tematica storica come quella delle patrie e delle appartenenze. Quindi, fra questo primo volume, nel quale qualcuno si è preso la briga di andare a tirare fuori dalle pagine di storia, sociologia, antropologia, letteratura, ciò che riguardava le donne, e questo ultimo volume, cioè nel quale le donne si rivendicano il diritto di parlare di tematiche con uno sguardo particolare, uno sguardo femminile. Ci sono 25 anni di storia di trasformazione del movimento femminile e femminista da un movimento più politico, un movimento più sociale e culturale, con un particolare percorso per quanto riguarda poi le donne storiche. Le donne storiche che hanno rivendicato appunto un loro ruolo, un particolare loro sguardo, la rivendicazione di nuove fonti, di nuovi oggetti di studio e anche nuovi spazi per la ricerca scientifica. E per questo motivo abbiamo chiamato queste tre relatrici. Noi, come sempre, abbiamo dei relatori così di ambito nazionale e dei relatori locali. Questa volta poi mi è difficile, no? Qualificare con questa caratteristica. Lucia Motti è stata per molti anni sudtirolese d'adozione, è stata insegnante a Merano e a Bolzano fra gli anni 70 e gli anni 80, e dopodiché negli anni 80 e 90 è stata ricercatrice presso l'Istituto Gramsci a Roma e si è occupata in particolar modo di storia delle donne, ha pubblicato molti libri, in particolar modo con gli editori riuniti. Lidia Menapace, voi conoscete, Bolzanina famosa nel mondo, già punto di riferimento del movimento femminista, in particolar modo dell'URI, Unione Donne Italiane, quindi anche qui personaggio locale nazionale, e Marta Ferdolfer, alla quale abbiamo chiesto di fare una relazione per quanto riguarda le ricadute in ambito locale di questo dibattito che si sta svolgendo da più di 20 anni nell'ambito delle donne e delle storiche donne. Ecco, cominciamo direi da Lidia Menapace, che potrebbe avere, o da Lucia Motti. Era una cosa così, va bene, la Lucia Motti, le passo il microfono e poi andiamo. Sì, volevo partire proprio da una provocazione, qualcosa che non avevo previsto nella mia scaletta, nel senso che la gentilissima padrona di casa, che appunto ringrazio per la sua gentilezza, ha posto subito a tema qualcosa che riguarda l'identità femminile, qualcosa che è diciamo, la forza e allo stesso tempo della dannazione dell'identità delle donne, cioè la forza dello stereotipo, no? Che a volte è forte perché è un elemento che ha delle radici anche se storiche e culturali, e a volte invece è negativo perché riconduce a ruoli, è appunto uno stereotipo. E allora il fatto che le donne si mettano da parte, no? Che quindi abbiano un rapporto di diffidenza col potere, anche se è un potere rappresentato da questo tavolo, da una scrivania, comunque qualcuno ci tiene comunque. È sicuramente vero, nel senso che è stato detto che c'è un rapporto di dissonanza, di asimmetria fra le donne e il potere, e allo stesso tempo forse una vera e propria maledizione, no? Nel senso che questa distanza, questo distacco, che per un verso è una forza, perché perlomeno, diciamo, non è che le donne sono esenti dagli stessi difetti degli uomini, per carità, però perlomeno forse siamo più autoironiche, più consapevoli di questi difetti. E anche però un elemento che ha fatto sì che, per esempio, nelle varie elezioni le donne o il rapporto col potere ci siano ancora dei problemi, cioè ancora oggi e pensa a un titolo di una rivista pubblicata nel 1898. Il titolo di questa rivista, di questo articolo in una rivista, un articolo scritto da una donna, era La politica bestia nera delle donne. Questo era del 1898, cioè dico, fa un po' impressione pensare che un titolo che potrebbe benissimo non andar bene per uno dei nostri giornali contemporanei. Però ecco, questo appunto era soltanto uno spunto che mi è venuto così, una suggestione, per dire che quello dell'identità delle donne, dell'identità di genere femminile in questo caso, è un aspetto a due facce, nel senso che da una parte appunto è un elemento di forza, dall'altra però stiamo attenti perché può comportare una cristallizzazione in ruoli determinati, nel senso che se noi pensiamo che il genere sia una costruzione sociale, una costruzione culturale, una costruzione storicamente data, quindi non soltanto, non fondata biologicamente, il puntare sull'rafforzamento dell'identità di genere può comportare il rischio di cristallizzare un'identità che anch'essa, come tante altre identità, semplicemente frutto di una serie di circostanze storiche. Ecco, in questo modo ho anticipato uno dei punti che pensavo di trattare nello sviluppo del discorso, però mi sembrava comunque una suggestione da raccogliere. Il vero punto di partenza era invece quello relativo alle tre parole, ai tre sostantivi, ai tre vocaboli, insomma, che identità e genere. Sono tre vocaboli dall'identità polimorfa, cioè nel senso che sono declinati in maniera diversa a seconda innanzitutto del contesto, e a seconda soprattutto dell'ambito disciplinare in cui si svolge il discorso. Ovviamente, essendo la mia professione quella di storica, il tipo di approccio che utilizzerò nell'ambito di questa mia breve introduzione è appunto di tipo storico. Cioè, quindi vedrò come la storia, in particolar modo la storia delle donne, si sono rapportate con questi tre termini: memoria, identità e genere. Inoltre, questi tre termini che di per sé hanno appunto una molteplicità di senso e di significati, declinati insieme possono produrre, e questo mi pare che si possa vedere anche in tempi recenti, degli esiti esplosivi, o perlomeno degli esiti da cui dobbiamo ben guardarci. Innanzitutto bisogna dire che storia e memoria non sono la stessa cosa. È una banalità dire che la memoria e la storiografia, cioè la storia e la storiografia, non sono la stessa cosa, però molto spesso, specialmente nell'ambito giornalistico, nell'ambito dei media, ma anche nel senso comune, si tende a confondere i due elementi. Ora, i due elementi sono separati, anche se fra di loro esiste un forte nesso reciproco. Uno si nutre dell'altro, potremmo dire. E la ragione comune di questi due elementi, la memoria e la storia, consiste nel fatto che ambedue assolvono a un compito, si pongono come obiettivo quello di riparare le ferite dell'oblio. Riparare le ferite dell'oblio e quindi, in qualche modo, salvare il passato dei singoli e delle collettività. E quindi un ruolo etico, quello che sia la memoria che la storia si pongono. Un ruolo quindi di riparazione, no? di recupero dall'ombra di fatti, di persone, di eventi che potrebbero scomparire se la memoria e o la storia non venissero loro incontro, non si occupassero di loro. Quello che c'è da dire è che nei nostri giorni si assiste molto spesso forse a una sovrapposizione dei due termini. Charles Myer, uno studioso che ha affrontato il tema dell'uso pubblico della storia, per esempio, ha parlato di un eccesso di memoria. Qui non parliamo ovviamente della memoria delle donne, stiamo facendo un discorso un po' di carattere generale su questi due termini. E ha parlato di un eccesso di memoria, e a me sembra in effetti, che penso proprio a quello che accade in Italia negli ultimi tempi, che molto spesso la memoria venga usata non come un utile strumento per far sì che la storia non prescinda dai soggetti, no? che secondo me invece è un obiettivo fondamentale, ma la memoria viene usata per delegittimare la storia. Quindi si ha non solo un uso politico della storia, un uso pubblico della storia, che è quello che abbiamo assistito in tempi più o meno recenti, ma abbiamo un uso politico della memoria. Cioè la memoria serve a delegittimare la ricerca storiografica. Penso per esempio al modo in cui vengono utilizzate memorie individuali assolutamente decontestualizzate, no? E presentate per televisione per delegittimare quella che è la ricerca sui campi di sterminio nazisti, per esempio, no? Un esempio tra i tanti. Questo, quindi, il rischio di una confusione tra memoria e storia è un rischio sempre presente nella ricerca storica, oltre che appunto nella vita quotidiana di ciascuno di noi. È un rischio che è stato presente dagli inizi ed era inevitabile, soprattutto nella ricerca storica delle donne. Ora, la ricerca storica delle donne, quando nasce? Nasce a metà degli anni 70, noi avevamo una isolata pioniera che era la Franca Pieroni Bortolotti, che già aveva cominciato insieme alla Paola Gaiotti De Brase a porre il problema, no, di andare a ricerca di una genealogia femminile. Anzi, in Italia ancora più indietro, c'era un caso di cui si parla pochissimo, Anna Maria Mozzoni nel 1866 aveva scritto un libro di testo, quello che nella sua mente doveva essere un libro di testo per le ragazze delle scuole secondarie, in cui addirittura proponeva una sorta di storia delle donne come una delle materie fondanti dell'istruzione generale. Quindi c'era proprio un isolatissimo precedente. Però la storia delle donne come movimento, come insieme di pratiche e di ricerca, nasce dopo il femminismo e non poteva essere diversamente. Perché la storia delle donne nasce quando, come dice appunto Gerda Lerner, un gruppo oppresso, in questo caso le donne, che non sono una minoranza, no? Ma che sono accomunate da una serie di caratteristiche alle minoranze, per esempio alle minoranze razziali, alle minoranze etniche, alle minoranze nazionali, che hanno una loro specificità perché al loro interno sono così variegate, no? Per collocazione sociale, per etnia, per razza, per religione, come nessuna minoranza lo è, nessuna minoranza oppressa lo è. Ebbene, quando le donne nel loro percorso individuano la necessità di costituirsi come soggetto politico collettivo autonomo, e questo accade appunto col neofemminismo, sentono il bisogno di costruire un uso politico della storia. Cioè la storia in questo caso è considerata indispensabile, uno strumento indispensabile per la costruzione di un'identità collettiva. Un'identità collettiva che era stata negata non dalla storia, perché fa parte dell'esperienza storica vissuta di ciascuno, uomini e donne, che nella storia ci sono gli uomini e ci sono le donne, ma nascosta, esclusa dalla storiografia, quindi esclusa, come diceva il bel titolo di un libro di Sheila Rowton, esclusa dagli storici, non esclusa dalla storia come è stato tradotto in italiano. Nella storia le donne ci sono sempre state, nella storiografia no, evidentemente. Allora, perché questo bisogno di storia, che nasce appunto come bisogno di fondare un'identità collettiva, è strettamente collegato al tema della memoria? Ma proprio perché non esisteva una storiografia consolidata, non esistevano fonti. Cioè non è possibile far fonti se l'archivista, no, ritiene storicamente irrilevante la conservazione di quello che le donne hanno prodotto. Il problema è appunto chi gestisce gli archivi della memoria, che sono anche queste istituzioni collettive, vere e proprie appunto istituzioni che danno l'idea del senso di sé che ha quell'istituzione. Istituzioni in cui le donne non erano previste, chiaramente non lasciano memoria, non lasciano segno della presenza femminile. Quindi le prime storiche che si sono occupate di donne a quali fonti hanno fatto ricorso? O alle fonti iconografiche, che sono fonti straordinariamente interessanti, che però hanno un difetto, e sono prevalentemente fonti prodotte dagli uomini. Quindi più che dare l'idea di come la donna era nella preistoria, nell'antichità, nell'età classica e così via, danno l'idea di che immagine l'uomo ha voluto dare della donna in quell'età. Le fonti invece che si sono rivelate più ricche di potenzialità proprio per far emergere quella che si chiama la soggettività femminile sono le cosiddette fonti di memoria, appunto. Diari, autobiografie, testimonianze, la storia orale, sono tutte queste fonti, appunto fonti di memoria o fonti di soggettività, quelle che hanno permesso di mettere in campo non tanto lo sguardo del maschile sul femminile, ma quelle che le donne pensavano o speravano di se stesse. In qualche modo forse solo la fotografia, che pure spesso scattata da uomini, consentiva questa doppia immagine, no? Perché nella fotografia, come diceva un famoso critico storico della fotografia, dice c'è soggetti, la macchina fotografica, il fotografo e il soggetto fotografato. E nella fotografia noi in alcuni sguardi possiamo fanno capire, no? L'intenzionalità del soggetto. Quindi la fotografia forse è un'altra fonte che può aiutarci a dire qualcosa appunto sulla storia delle donne. Però non divaghiamo troppo, ma le vere fonti sono appunto le fonti di memoria. Quindi nasce in maniera privilegiata questo rapporto, che è questo trittico, no? Tra donne, memoria e identità. Sono tre elementi costitutivi tra loro inscindibili nella storia degli inizi legata al movimento femminista. Però la cosa paradossale è che se la storia delle donne dall'inizio si è molto occupata appunto di memoria, ha usato la memoria, le storiche hanno poco indagato sulla memoria. Faccio un esempio, Giorgio ha fatto vedere quel numero di memoria, questa bellissima, straordinaria rivista storica di cui abbiamo pianto a lungo il lutto quando è stata chiusa, ahimè. Bene, memoria era fatta su numeri monografici, cioè ci sono numeri legati all'età, all'invecchiamento, numeri legati alle appartenenze, bambina, insomma ci sono tutta una serie di parole simbolo, no? Parole chiave che danno il senso di quel numero. Bene, non c'è un numero di memoria dedicato alla memoria. Non ci sono nelle storiche italiane riflessioni teoriche, metodologiche, sull'uso della memoria nel campo storiografico. Ci sono brevissime storiche che ricercano e utilizzano fonti della Shoah, Luisa Passerini, la memoria del 68. Ecco, quindi ci sono delle ricerche, appunto, una riflessione su cosa vuol dire usare fonti di memoria. Per esempio, una domanda centrale che mi sono posta a un genere, dal punto di vista della storia non ha ancora una sua risposta. Noi possiamo dirlo dal punto di vista, possiamo dirlo sicuramente dal punto di vista della critica letteraria, cioè quelle che hanno indagato le forme narrative della memoria. Però dal punto di vista storico, se esiste un modo particolare delle donne legato al loro genere di ricordare rispetto agli uomini, no, non c'è ancora una ricerca in questo senso. E penso che sarebbe una ricerca che potrebbe produrre esiti interessanti. Per esempio, mi piacerebbe occuparmi, e penso è un convegno che abbiamo in mente di fare, a dire la verità, è la memoria della politica, cioè vedere nelle autobiografie, che sono ormai tantissime, di uomini e donne, in cui descrivono il loro rapporto della politica, vedere se esistono delle differenze in cui, di approccio, sia di stile narrativo, sia appunto di gerarchia delle rilevanze. Cioè se esiste, in base ai racconti di memoria, un modo diverso di intendere che cosa è politica, per esempio, domanda assolutamente centrale. Ecco, quindi non possiamo ancora noi come storiche rispondere oggi a questa domanda, anche se forse un elemento caratterizzante per dire sì che forse ci può essere una memoria di genere è data dal corpo. Ecco, questo penso di poter dire pensando appunto alle bellissime, per esempio, terribili interviste rilasciate dalle donne detenute nei campi di concentramento nazisti, o le interviste pubblicate da Laura Mariani delle donne prigioniere politiche durante il fascismo, l'esperienza della guerra. E le donne, per arrivare sino alle condizioni delle donne del corpo, sia un tema che ricorre nella memoria femminile molto più che in quella maschile. particolari apparentemente banali, non so, per esempio penso alla ragazza che fa la staffetta in un momento di crisi, cioè un momento in cui viene fermata mentre ha la borsa piena di armi, racconta un particolare, un dettaglio che riguarda, non so, i suoi capelli oppure un dettaglio sull'abbigliamento, cosa che sicuramente non sarebbe mai accaduta in un racconto maschile. Quindi forse questo è un versante che potrebbe essere indagato. Sì, penso proprio di poter dire che il corpo, l'attenzione al corpo, è uno degli elementi che caratterizzano una memoria femminile, però appunto è ancora un terreno completamente da arare. Quello che possiamo dire invece sulla struttura degli archivi, perché gli archivi di persone, gli archivi delle istituzioni, abbiamo detto, giustamente, se non sono istituzioni maschili, perché dovrebbero avere un altro genere, no? Invece gli archivi di persone private sono, gli archivi di persone sono interessanti da questo punto di vista. E purtroppo confermano uno stereotipo, cioè le donne non conservano traccia del proprio lavoro, se non raramente, e sono invece ottime custodi del lavoro altrui. Cioè i grandi archivi di grandi personaggi storici della politica, intellettuali, non esisterebbero se non ci fossero state delle donne che hanno raccolto le loro carte, raccolte, riordinate, tenuto conto delle loro carte, dato valore alle loro carte personali. L'altra cosa interessante, che spero risulti interessante, è che negli archivi delle donne, che poi avevano questa percezione di sé, dell'importanza del proprio agire, faccio alcuni nomi di archivi che ho visto personalmente, quello della Gisella Florianini, donna ministra nella Val d'Ossola, la prima donna ministra in una Repubblica partigiana, l'archivio appunto della stessa Franca Pieroni Bortolotti, una storica importantissima per tutte noi, l'archivio di Rita Maierotti, un'esponente socialista di fine Ottocento, sono archivi di donne che avevano una precisa consapevolezza dell'importanza del loro agire. E sono archivi in cui però non c'è una carta che riguardi la loro vita privata, cioè le donne periodicamente come se conservassero e insieme distruggessero, cioè una parte della loro vita privata viene cancellata, mentre invece per esempio penso alle carte di Togliatti, ma tantissimi altri personaggi molto più minori della politica, conservano tutto, conservano la cartucella del primo giorno di scuola, conservano il biglietto dell'autobus, conservano tutto, no? Un po' perché appunto c'è qualcuno che glielo conserva. Infatti. Quindi evidentemente, adesso non voglio forzare le cose, però c'è un'attribuzione di importanza, è come se la donna svalorizzasse se stessa, cioè non tendesse, no, a non considerare storicamente rilevante quello che riguarda lei personalmente. E per questo poi tende a conservare invece le carte che riguardano il noi, cioè i volantini, tutto quello che riguarda ciò che è movimento collettivo. L'unica, diciamo, una studiosa che ha molto ragionato invece sul tema del rapporto tra memoria, genere e identità è una studiosa statunitense che amo moltissimo perché ha detto, scritto delle cose molto belle, Gerda Lerner. Tra l'altro una donna di grande coraggio perché è stata la seconda nominata presidente dell'Associazione degli Storici Statunitensi e ha avuto il coraggio di aprire una sessione di questo congresso molto paludato parlando soltanto di donne e di storia delle donne e quindi creando qualche scandalo. E Gerda Lerner appunto ci ricordava l'importanza che ha la storia come necessità sociale, cioè appunto lei dice la storia, fare storia non è un lusso intellettuale, ma soprattutto per le donne è una necessità sociale. E appunto lei ci ricorda come sia importante per la costruzione di un'identità individuale come collettiva quella del costruire la propria storia. Qui avevo preso due brevissime citazioni. Scrive Gerda Lerner nell'82, tra l'altro il saggio, la produzione, anzi viene pubblicata proprio su Memoria, sul numero monografico dedicato alla storia delle donne. Nel considerare la vita di ciascun individuo come un legame fra le generazioni e nel concederci di trasformare i morti in eroi e in modelli d'emulazione, scusatemi, la storia connette il passato al futuro e diventa la fonte di identità personale. Allora, Quando io ho letto questa frase, mi era piaciuta moltissimo, così come mi era piaciuto moltissimo tutto il saggio di Gerda Lerner, perché mi convinceva così questo approccio forte alla storia delle donne, la storia delle donne come elemento che serve, come collante, no? come elemento di coesione, questa ricerca di un denominatore comune per costruirsi questa identità collettiva e legittimarsi così come gruppo politico, come gruppo di forza, come gruppo presente nella storia. Devo dire invece che rileggendola proprio in occasione della giornata di oggi mi ha fatto un po' tremare. Cioè mi ha fatto un po' tremare questo bisogno di eroi, Bertolt Brecht, no? Cioè, poveretto che è il popolo che ha bisogno di eroi. E questo richiamo all'emulazione degli eroi morti, francamente, di questi tempi mi evoca immagini ben poco rassicuranti. E Gerda Lerner poi prosegue, che la storia è anche una fonte di identità collettiva. Rintracciare le proprie radici, radicare la propria identità in un qualche gruppo collettivo con una tradizione comune, una collettività definita dalla razza, dal sesso, dalla classe, dalle caratteristiche uniche, è un elemento che sicuramente fa acquistare stabilità ed è la base per una vita comunitaria. E quindi facevo l'esempio qui della razza, dell'etnia, del sesso e così via. Bene, penso che forse questo legame inscindibile che esiste tra memoria, identità e genere vada storicizzato. Nel senso che è stato sicuramente un fattore di grandissima rilevanza e grandissima importanza per lo sviluppo e la nascita e il rafforzamento di un movimento politico delle donne negli anni 70, ma che forse oggi non abbiamo più tanto bisogno di questo, forse abbiamo bisogno non tanto più di identità forti, di identità appunto che tra l'altro corrono il rischio di essere cristallizzate, no? In cristalli storici, modelli che non tengono conto della loro nascita, della loro crescita storica. Forse abbiamo bisogno di quello che la Rosa Ibreotti chiamava un'identità nomade, cioè un'attenzione alle differenze, una consapevolezza della nostra identità, che però non si traduca nel rifiuto, nell'inascolto dell'altro sé. Cioè se l'altro da sé, se il processo identitario porta a identificare l'altro da sé come nemico, bene no, devo dire che a quel punto preferisco un'identità debole, ho paura di quello che può produrre, che posso essere identità forti, anche se sono identità di donne. Vabbè, io vorrei aggiungere delle altre cose, però mi farebbe più piacere sentire Lidia e Marta e dopo sentire se ci sono domande e casomai poi riprendere ancora alcuni dei temi della discussione. Va bene?